ecco, la teoria delle stringhe dell'universo spiegata in musica, vediamo, molto chiaro. No? Stephen Hawking, è lui. È lunedì. È lunedì. Sì, ho capito, non è che c'è un funerale, capito? Non puoi essere così. Non è come intellettuale, come funerale. Sono le 5 del pomeriggio, ormai la gente ha metabolizzato l'idea. Allora, è martedì. È quasi martedì, ormai lo shock è passato. C'è Ballarò. Se noi andassimo in onda alle 6 del mattino, allora capisco che dici è lunedì. Stasera c'è Ballarò. Cosa c'entra? E c'è anche Matrix. Thank you, good night, and see you soon. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Ah! Ho proprio bisogno di rilassarmi un po'. Dubito che riuscirai a rilassarti, cappa. Le poltrone dell'ufficio sono così scomode. Ma che? Io ho appena ordinato una nuova poltrona. Guarda che meraviglia. Wow. C'ha tutto, fari, frecce. È proprio l'aria ergonomica, eh? Sì, ergonomica. Aia, posso, vedi, alzare il poggiapiedi e quindi avere poi guarda, così la pressione del ginocchio. La pelle che... morbidissima. La pelle morbidissima, ma, sì. Ma l'hai già sporcata tutta, è piena di briciole. Sì, trago. Il coronamento perfetto di tanta comodità non può che essere un buon Wunderwaffer. Mi accomodo qui e me lo sgranocchio. Un'estasi di relax e gusto. Ah, come ti invidio, K. Ce n'è anche per me, eh? Prego. No. Come no? È finito. Sì, pensavo di sì, invece me lo sono mangiato tutto, mi spiace. Con Wunderwaffer anche l'amicizia passa in secondo piano. Comunque io, guarda, io mi riferivo in realtà se avevi una sedia ergonomica. Costa 7.000 euro. Ah. Più IVA. Bentornati a Chiedo Asilo, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Com'era che è lo sgranocchiamento del Wunderwaffer? Fa venire proprio voglia di... Oh, sentite, caro pubblico a casa, non avete voglia di un bel Wunderwaffer? Senti, la fragranza, sì, del Wunderwaffer. Ma la fragranza è una cosa olfattiva, cosa c'entra con questo? Non so, l'ha detto uditivo. La Fagin. Ma la Fagin così ha sentito dire fragranza una volta. È stata colta in fragranza, Dito, colta. Dito, dai. Allora, okay. Va bene, allora, notiziona. Due ufficiali della polizia britannica, sotto copertura, avrebbero avuto figli da alcune attiviste politiche che avrebbero dovuto spiare e poi sono scomparsi completamente dalla loro vita. Rivelarlo è il Guardian. Dovrebbe essere il Guardian, è tutto così. No, però hai capito che storia. Cioè sono bambini, quindi, nati non per amore, no, ma per qualcosa che esula completamente dal senso della vita. Cioè questi poliziotti per spiare delle attiviste politiche hanno fatto finta di innamorarsi, vabbè, hanno fatto figli e poi sono spariti. Ma quante volte tu hai fatto finta solo perché... Ho capito. E poi non solo fortuna che non sono nati figli. Non mi è mai arrivata la letterina con la foto del bambino. Vabbè, comunque, ci sono anche figli famosi che sono nati per motivi che esulano completamente dal senso della vita. Tipo, non so, tipo il figlio di Tom Cruise o la figlia, come si chiama? La figlia di Tom Cruise. Suri. Lei si dice che sia figlia Suri di Tutulani. Sai che lei si dice che sia figlia degli alieni addirittura, quindi a 5 anni è tra le 10 donne meglio vestite del mondo, gira tutta truccata, è una diva, non sa nemmeno ancora fare le tabelline, però, Però cosa c'entra gli alieni? Non allora, ho ancora capito. Ti spiego. Si dice che Tom Cruise sia gay, Tom Cruise. E quindi non sfiori la moglie nemmeno da lontano con una piuma di struzzo, quindi i figli non siano quelli di Tom Cruise ma di quella potente chiesa innominabile di cui fa parte Tom Cruise. Cruise. Si dice Tom quella Cruise. Roba. Ti ricordi quando stava con Penelope Cruz? Si chiamavano uguali. Tom Cruise, Penelope Cruz. Quindi non so solo che a Hollywood gira voce che Suri sia nata dall'accoppiamento tra Katie Holmes e una divinità aliena. Questo è molto divertente. No, ma guarda che è vero, andate su suricruisefashion.blogspot.com e poi ditemi se Suri è una di noi. E ora, bambini, ricreazione. Vabbè, allora facciamo così, cominciamo a metterci sedute a trovare e individuare il nome per la società, perché... dobbiamo trovare prima di tutto il nome, dobbiamo far venire la gente a noi, non noi da loro. Allora, Ioris, siccome ti riconosco una certa dose di empatia con la gente, no? Tu prova a scegliere il nome, che magari deve essere un nome Che dici, micro società di... Pensiamo a un nome, aspetta, ci vuole qualche secondo, devi fammelo venire in mente. Io immagino i nostri clienti che faccia avranno, come saranno vestiti, come andranno in giro, se c'hanno i soldi o no, perché dipende poi che materiale ci arriva. Materiale! Quindi, visto che dobbiamo vendere materiale, che materiale è? Pasta asciutta! Allora, pasta asciutta, mi sembra ragionevole. Ma da lui, ma... Allora, facciamo così, qui adesso si è fatto tardi, mi sembra che un po' di intese abbiamo raggiunte. Che ne direste di andarcene al bar? Bar! Al bar? A fare? Io bevo un negrone, no? E allora pure io bevo un negrone. Ah, buono. Piace anche a te? Sì, mi piace. E allora? Negroni! E allora? Oh, sei d'accordo pure allora, Gildo! Allora, scusate, allora, perché non facciamo così? Perché sembra un segno del destino. Non, la nostra società non lo chiamiamo negroni, no? Negroni! Negroni! Non è... Negroni. Già esiste. Sì, dei salami, no? Dei salumi. Salami! Certo, è già un veicolo pubblicitario, ma poi io sto andando a 100 all'ora, poi... Allora... Passa sì, ma abbiamo anche già il jingle, no? Usiamo il loro. Cambiamo un po' le parole. Jingle! Sì. Il jingle, non Gildo! Allora... Jingle! Ah, non l'ho capito. Te lo dico io, facciamo. I nomi sono tanti, milioni di milioni, sì. Si chiamerà Negroni. Dobbiamo aggiungere un finale, così capiscono che non è quello dei savani. Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer. Ma adesso passiamo al marketing, K, il marketing. Allora, senti qua, senti qua. Ma quante Italie conosciamo? Quella dell'arte, quella della grande inventiva, quella del talento costruttivo, senti la voce, quella del paese pittoresco, quella della raucedine, quella dei giovani che cercano un futuro. Ma senti le parole, sì, sì. Quella capace di grandi imprese industriali. Che pubblicità è, Drago, questa qua? Io lo so, lo sento, sento che è una pubblicità. Non si può dire che è una marchionne, c'è dietro. Allora, si sente, di, andiamo giù, quindi, il sapore di marchionne. Andiamo giù con lo spot, non lo ridiamo alla fine perché poi non si capisce. Però noi potremmo farlo però virato sulla Svizzera, capito? Impostare la voce bene, proprio della Svizzera, alla Svizzera, sì. Immaginare bella, una voce svizzera. Guglielmo Tell, tipo. Esatto, okay. Guglielmo Tell, quindi... e poi virare tutto questo messaggio sul Wunderwaffer. Sì. Vai, sì. Vai. Ma quante Svizzere conosciamo? Quella di orologi, quella di cioccolato, quella di segreto bancario, quella di oro degli ebrei, quella di fare tutto da soli, quella che noi possiamo scegliere quale Svizzera essere. È il momento di decidere se essere noi stessi o accontentarci dell'immagine che ci vogliono dare di svizzeri che hanno i soldi e pensano solo ai soldi. Questo momento è quello di ripartire. Ripartire in unico modo che noi svizzeri conosciamo, con il nostro lavoro, con il nostro fare credito, recuperare interesse, fare banca cavò, perché in Svizzera tutti i giorni c'è qualcuno che si sveglia e mette nel suo lavoro il talento, la passione, la creatività, ma soprattutto gli interessi. Interessi, interessi. Le cose che costruiamo noi svizzeri non valgono niente. Quello che vale è l'interesse. Questa è la Svizzera che piace. Se così, tra una cosa e l'altra, volete anche mangiare un Wunderwaffer? Un Wunderwaffer? Se vi piace. Svizzera, questa è la canzone tradizionale hawaiana. Capo, c'è anche il Wunderwaffer all'ananas. Yo, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Eh?